Tutto chiaro? Proviamo. A. Ascolta e completa il dialogo. Ciao Francesca. Ciao Paola. Dov'è Luisa? Boh, forse è lei. Sì, ecco, Luisa è davanti all'altro bar. Luisa! Ciao Paola. Ciao Francesca. I bar sono tutti e due bar Pucci. Per fortuna sono vicini. Che cosa è? È un libro con tante fotografie di paesaggi italiani. È un regalo per Mina. Bello! Sei molto gentile! Mina è una brava fotografa, ma è in Italia per poco tempo ed è impossibile fotografare tanti posti in un mese. È vero! Siamo in anticipo per il concerto. Un cappuccino? Sì, volentieri! Buona idea! Bar Pucci o Bar Pucci? Le ragazze sono al bar. Scusi, è libero il tavolo? Sì, prego, si accomodi. È possibile ordinare subito? Sì, certo. Un cappuccino, grazie. Anche per noi, grazie. Grazie a voi. Ecco i cappuccini. Sono 6,30 euro. Ecco, 6,30 euro. Grazie e buongiorno. Buongiorno.